Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche e Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, trasmissione in cui tante volte, già anche nelle edizioni scorse, abbiamo raccontato di questo braccio di ferro estremo, questa gara finale senza risparmio di colpi sopra e sotto la cintura che avveniva nel dopoguerra sulla questione chi doveva foggiare la morale e l'educazione dei ragazzi. Uno scontro che vide la Chiesa, quella 48esca, quella delle scomuniche, rivendicare la titolarità di questo compito. Io lo contrastava chiaramente, il movimento operaio, l'organizzazione della sinistra, il Partito Comunista, perché in sintonia con l'ideale di un mondo nuovo lavorava coi ragazzi all'interno, per esempio, dell'associazione del Pioniere legata al giornalino di Rodari, ma anche nelle colonie dell'Udi o in quelle delle camere del lavoro o dei comuni democratici. Lo scontro fu assoluto, tanto che ebbe un suo epicentro nel 52-53, nell'attacco che nel Veneto si sferrò contro un'associazione dei pionieri di un piccolo paesino in provincia di Padova, Pozzonovo, che divenne un po' l'oggetto degli strali, in particolare del vescovo locale che attraverso questo foglio, La difesa del popolo, settimanale cattolico della diocesi di Padova, scriveva né più né meno: angeli o demoni i nostri bimbi? Perché siano angeli Pio X aperto loro la porta dei tabernacoli, perché diventino demoni il Partito Comunista ha creato l'Associazione Pionieri d'Italia, e sotto il grido angosciato anche del vescovo di Ravenna, con accuse pesantissime dove si imputava agli organizzatori del Circolo Pionieri di Pozzonovo non di creare dei momenti di aggregazione con i bambini, ma delle vere orge pedofile socialiste. Ci fu un processo molto pesante, ci fu anche della gente che ci morì, insomma una cosa che ebbe una vasta eco nazionale e che viene ricordato oggi in un libro, Angelo Demoni, i nostri bimbi, storie di una montatura comunista, il processo di Pozzonovo a cura di Alessandro Naccarato, edito Feltrinelli, che in qualche modo ripercorre anche iconograficamente quei giorni durissimi di scontro appunto contro questo circolo dell'Api di Pozzonovo, ricordando quella scomunica 48esca, più ancora per i comunisti, appunto valeva per le organizzazioni giovanili dei comunisti della sinistra. Allora Morena Moretti, per la nostra redazione, ha raggiunto Alessandro Naccarato, appunto chiedendo in qualche modo il perché di questo libro. Da bambino mi portavano alla messa ed io seguivo la funzione con un'aria un po' perplessa. Il prete stava in piedi sull'altare col microfono, spiegava i passi del Vangelo con tono monotono. Col tempo e con la scusa di giocare all'oratorio mi infilarono nel mucchio catechismo obbligatorio, perché non sta bene, non puoi essere diverso, emarginato come pecora smarrita dentro Mosco. Per bene adesso di le preghierine, non dubitare mai nell'esistenza del Signore, lascia stare le tue fantasie sessuali di bambino. Quante volte ti sei masturbato il pistolino? Il prete in molti casi è un uomo molto presuntuoso, nonostante l'apparenza di un sorriso zuccheroso, crede di essere il depositario di una verità assoluta. Ad ogni tua obiezione rigira la frittata. Prete, io non ho voglia di ascoltarti. Prete, non hai il diritto di insegnarmi niente. Sei bravo ad inventare, a raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia. Se bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere i piedi, la bugia più grande della storia. La bugia più grande della storia. Professor Naccarato, lei ha pubblicato di recente un libro

isolati, emarginati, discriminati da tutti i punti di vista. E il fatto che un'associazione lavorasse per diciamo, creare delle sedi di ritrovo anche con insomma, momenti ricreativi, culturali per i bambini, la Chiesa non poteva tollerare questo tipo di atteggiamento, a maggior ragione in una zona diciamo come il Veneto, che c'era il Veneto, la zona più povera tra l'altro del Veneto, sì. Quindi anche dove la Chiesa presentava caratteristiche di chiusura particolarmente diciamo così evidenti, e quindi questa reazione nasce proprio in questo clima, quindi in questo clima di intolleranza e di discriminazione c'è un attacco frontale ai pionieri proprio per impedire loro di svolgere questo tipo di attività. Allora, all'epoca stiamo parlando, diciamo, del dopoguerra, pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia è un paese decisamente, ha perso la guerra, decisamente povero, c'è stata sì la guerra di liberazione, ma il paese deve ancora crescere, diciamo, e i bambini hanno problemi di povertà, anche di fame, di denutrizione e anche di fame di, come dire, cultura. Quindi lei da storico che cosa ci può dire su questo? Quindi è un problema che la sinistra, chiamiamola sinistra all'epoca, si pose. Certo, infatti il tentativo era quello, non solo diciamo sul piano sociale di contrastare la povertà. Questa zona diciamo della bassa padovana era zona di bracciantato diffuso. Sì. Quindi lo sforzo era quello di avere in qualche modo delle condizioni di lavoro più stabili, introdurre forme di reddito minimo, ricorda per certi versi le battaglie che si fanno oggi contro il caporalato in condizioni ovviamente economiche e sociali completamente diverse. Però il tentativo era quello quindi di dare un minimo di progresso sociale, di stabilità sul piano occupazionale, e poi c'era un problema drammatico sul piano culturale, quindi zone di analfabetismo elevatissimo, famiglie disgregate completamente, in parte anche per l'emigrazione, perché oggi non siamo abituati a vedere il fenomeno alla rovescia. All'epoca dalla bassa padovana c'era un'emigrazione stagionale stabile, in particolare verso l'Italia occidentale, verso la Francia, quindi queste famiglie erano costantemente in viaggio, spostate, divise, con tutte le conseguenze negative che si possono immaginare. E la Chiesa voleva conservare un monopolio anche in termini di controllo sociale in qualche modo di questa situazione. Torniamo invece alla casa di Pozzonovo e sì. Vorrei sentire da lei qualcosa relativa proprio al processo che si svolse. Sì. Ecco. Beh, il processo divenne un grande caso nazionale perché ed è stato un po' anche diciamo così l'evoluzione imprevista che ha avuto la vicenda, perché tenga conto che il vescovo di Padova dell'epoca incarica il parroco di Pozzonovo di svolgere una vera e propria indagine, quindi di raccogliere anche le testimonianze delle presunte vittime, ma non con l'obiettivo di denunciare all'autorità giudiziaria questi presunti comportamenti illegali, ma quello proprio invece di tenerla su un piano politico-culturale. E i pionieri del Partito Comunista ovviamente non accettano questo tipo di impostazione, anche perché sono consapevoli dell'assoluta innocenza delle persone accusate, e quindi si arriva all'autorità giudiziaria con l'obiettivo di dimostrare l'innocenza di queste persone, e nei due gradi di giudizio, perché poi la Cassazione non si pronunciò perché il ricorso venne dichiarato inammissibile, ci sono avute due sentenze, la prima proprio per insussistenza del fatto, la seconda è una soluzione invece per insufficienza di prove, che era, all'epoca ancora era previsto nel nostro codice questo tipo di formulazione. Fatto sta che le prove non trovarono nessuna conferma in sede giudiziaria, ma anzi emersero una serie di episodi estremamente gravi in termini diciamo di condizionamento economico e sociale di alcuni bambini chiamati a testimoniare, che in qualche modo erano stati attratti con forme più o meno esplicite di ricatti per suffragare diciamo così le accuse portate avanti dal parroco di Pozzonovo. Le prove sostanzialmente non esistevano, anche perché per essere proprio estremamente diciamo così chiari emerse subito la chiarezza della montatura ideologica. I carabinieri, per esempio, che diciamo così all'epoca siamo ancora molto vicini al regime fascista, i carabinieri incaricati dell'indagine si convinsero subito dell'assoluta inconsistenza delle accuse, pur non essendo diciamo, orientati a sinistra o minimamente sospettabili di simpatia verso il Partito Comunista. Però le prove non proprio mancavano assolutamente. molto curiosa che diede risonanza a questo episodio fu il coinvolgimento in prima persona di alcuni esponenti diciamo di livello nazionale del Partito Comunista, in particolare Concetto Marchesi, che era stato rettore dell'Università di Padova, uno dei capi riconosciuti della resistenza italiana, quindi una figura estremamente autorevole, soprattutto sul piano culturale, un latinista diciamo così illustre, prese le difese apertamente dei pionieri di Pozzo Nuovo e cercò di diciamo cogliere l'opportunità del processo per spiegare lui per primo come la partita vera era il monopolio dell'educazione. E devo dire che a vedere anche a distanza di anni la chiarezza con cui Marchesi sostenne le sue tesi fa una certa impressione, perché fa capire come un pezzo del mondo della cultura laica italiana aveva capito perfettamente quali erano i rischi in quella fase storica, e alla fine prevalse questa tesi. Quindi ci fu anche un orientamento della cultura a favore, diciamo così, della laicità dell'educazione e del fatto che lo Stato doveva svolgere anche una funzione pedagogica ed educativa. La storia della Chiesa è seminata di violenza, di soprusi, la Santa Inquisizione, prepotenza e poi genuflessioni collettive dei politici, salvezza delle anime, la rendita degli immobili. Ma quanti belli affari fate con il Giubileo e quanti bei miliardi che sta alzando Padre Pio. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle tonnellate di oro e delle vostre banche. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle chiese piene d'oro e delle banche. Prete, io non ho voglia di ascoltarti, prete, non è il diritto di insegnarmi niente, sei bravo ad inventare, a raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia, sei bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia. Perdonate questo sfogo troppo anticlericale, in fondo ognuno è libero di scegliersi la sua prigione, libero di farsi abbindolare, ipnotizzare dal papa, dal guru, dal capo spirituale. Ma la cosa deprimente che mi butta giù è vedere quella folla la giornata della gioventù, folla di decerebrati, sottosviluppati, deficienti, abituati ad essere obbedienti al papa. Io non ho voglia di ascoltarti papa, non è il diritto di insegnarci niente, sei bravo ad inventare, a raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia, sei bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia. La bugia più grande della storia. Ringraziamo Alessandro Naccarato per questa intervista che ci ha un attimo delucidato di queste accuse, questo circolo dei pionieri di Pozzo Nuovo che, pur facendo innocenti incontri a base di gasose e fumetti, venivano accusati di feste, orge e nudità. Le nudità erano quando i ragazzini e le ragazzine che facevano sport indossavano barchette corte e t-shirt lasciando gambe e braccia nude. Questo è un po' il quadro che ricostruisce questa vicenda e questo è il libro Angeli o Demoni. Passiamo invece a un altro aspetto che spesso curiamo nella nostra trasmissione, quella del fumetto in qualche modo più impegnato, la graphic novel, ovvero sia il romanzo fumetti, verrebbe in qualche modo da tradurre, che tante volte incrocia anche personaggi e miti dei nostri tempi. Partiamo allora da quelli musicali. Due sono gli esponenti del rock, uno del rock fine anni 60, Janis Joplin, e l'altro invece è il rock demenziale nato a Bologna nel 67, gli Skiantos. Di questi due fenomeni ascoltiamo un lavoro delle ragazze di Lettera 42 che hanno intervistato appunto i curatori di queste graphic novel. Ciao, sono Monica di 42 La Risposta. Siamo collegate telefonicamente con Giulia Arniani, autrice del graphic novel Janis Joplin, Piece of My Heart. Ciao Giulia e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Monica, grazie a voi. Il tuo lavoro è una biografia su Janis Joplin. Perché proprio su di lei? Cosa ti ha attratta della vita di questa divinità del rock? Assolutamente sì. Guarda, in realtà la proposta è venuta dalla casa editrice, che io avevo contattato per motivi altri, e facendoci poi una chiacchierata è venuta fuori l'esigenza da parte loro di inserire una figura femminile all'interno della collana rock, e possibilmente facendola raccontare da una donna, per cui mi hanno fatto la proposta e io sono stata molto felice di questa cosa, perché comunque Janis Joplin è sempre stata una delle mie cantanti preferite. Io amo molto il mood anni 70, sia musicalmente che visivamente, nei vestiti, eccetera, eccetera, quindi è stata un'esperienza molto interessante. La cosa che ho cercato di fare di più era quello di non raccontare troppo l'icona, ma di raccontare più una Janis Joplin umana, insomma. Questo è stato il mio tentativo come autrice di dare un contributo differente rispetto a quello che avevo già letto su lei. Giulia, qual è la difficoltà maggiore che hai riscontrato nel realizzare la biografia su Janis Joplin? Bah, diciamo che lo scrupolo che mi sono fatta di più era quello di non andare troppo oltre quello che erano le informazioni che mi venivano fruite attraverso libri, internet e interviste varie. Perché appunto quando una persona non c'è più non è che può venire a dire sì, no, forse. Quindi già ovviamente le informazioni che ti arrivano passano attraverso altri, perché ovviamente gente non l'ha potuta conoscere, quindi ho cercato il più possibile di rimanere fedele a quello e di inventarmi, tra virgolette, alcune situazioni, basandomi però su delle informazioni ben precise che mi hanno potuto dare l'idea quantomeno più precisa possibile di quello che forse Janis poteva essere. Una curiosità: quando eri bambina i tuoi disegni erano autobiografici? No, guarda, devo dire che il discorso della biografia, autobiografia è una cosa che mi appartiene molto, e penso di parlare anche a nome di un po' tutte le persone che si esprimono in qualche maniera, che sia il disegno, la musica, il teatro, quello che è, nel senso che ovviamente hai sempre l'esigenza di passare tu attraverso lo strumento, no? Lo strumento carta in questo caso, quindi per me proprio nasce da un'esigenza personale, non l'ho mai fatto così, per l'idea di dover far leggere per forza le mie cose agli altri o diciamo avere un aspetto narcisistico un po' della situazione, l'ho fatto sempre solo per me, un po' come se fosse il mio diario personale, per cui ritrovarmi ad occuparmi di una biografia in età adulta e con una biografia comunque di un certo spessore, insomma, è una cosa che ho accolto molto volentieri perché è assolutamente nelle mie corde. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Siamo collegati telefonicamente con Cisco Sardano, autore del graphic novel L'irraccontabile Fricantoni. Ciao Cisco e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi di avermi invitati. Cisco, perché hai deciso di scrivere una biografia proprio su Fricantoni? Ho deciso di scrivere un libro su Frick paradossalmente partendo da una condizione di non fans, nel senso che io non ero un fan degli Schiantos. Quando sono arrivato a Bologna, lavorando per un noto centro sociale bolognese, facendo attività lì da tanti anni, ho avuto la fortuna di conoscerlo durante l'organizzazione di un suo concerto, cioè lui si è presentato e quando ci ho parlato mi si è aperta la lampadina, mi sono un pochettino ricordato di ciò che erano gli Schiantos e ho iniziato ad ascoltarlo e incuriosirmi, quindi piano piano sono diventato fan. romance, decido di scrivere un suo libro quando mi viene chiesto dai miei editori di lavorare a una biografia che parli un po' della città che ho scelto e che parli un po' di musica, essendo anch'io un appassionato di musica e un musicista. È stato come fare 2 più 2, è stato semplicissimo, era l'unica cosa di cui potevo scrivere. È comunque un personaggio di cui non si parla tantissimo quanto si dovrebbe rispetto a quello che ha dato appunto alla cultura italiana. Qual è stata la difficoltà maggiore che hai riscontrato nel realizzare la biografia su Fricantoni? Intanto c'è da dire che le difficoltà sono che ho incontrato nello scrivere questa biografia, sono leggibili già nel titolo. Ho chiamato appunto il libro Il Raccontable, che poi c'è un errore ortografico voluto, come nella prima registrazione degli Schiantos, che è inascoltabile. Io ho fatto l'irraccontabile Fricantoni proprio perché nel cercare di ricostruire la sua carriera sia dal punto di vista artistico che umano ho trovato una tal complessità nella ricostruzione che mi è sembrato davvero irraccontabile, quindi a un certo punto ho completamente abbandonato l'idea di fare un biopic classico, no? Dove si parte dalla nascita e si finisce con la morte dell'artista, ma ho cercato una chiave che fosse più legata a dei momenti, a delle piccole fotografie, a delle polaroid, ed è venuto fuori quasi un disco, sono 10 tracce. Io sono uno schianto, suono senza l'impianto, con un urlo d'incanto. Sì. Perché sono uno schianto. Io sono decido che vengo, non è detto che canto, no, perché sono uno schianto. Io sono uno schianto, non c'ho il cuore affranto, se ti guardo mi inciampo, perché sono uno schianto, io sono uno schianto, non lo senti che tanfo, se mi scappa col vento. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balun. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare su...